Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer, traduzione di Bruno Dera. Herman aveva trascorso i primi due giorni di Sukkot con Masha ed era tornato i giorni di mezza festa nel suo appartamento a Brooklyn da Yadviga. Dopo colazione sedeva al tavolino del soggiorno e lavorava a un capitolo di un libro intitolato «La vita ebraica, quale si rispecchia nello Shulchan Aruch e nelle responsa». Il libro era già stato accettato da editori in America e in Inghilterra e Rabbi Lampert stava per firmare il contratto anche per una casa editrice francese. A Herman sarebbe spettata una percentuale sui diritti d'autore. Il testo doveva avere una lunghezza più o meno di 1500 pagine e in origine era stata prevista una suddivisione in parecchi volumi. Rabbi Lampert si era accordato però perché l'opera venisse pubblicata prima come una serie di monografie, ognuna delle quali in apparenza completa in sé, ma compilata in modo da poter in seguito, con piccole modifiche, entrare a far parte di un grosso volume. Herman scrisse alcune righe e si fermò. Non appena si metteva al lavoro, i nervi cominciavano a sabotarlo, lo prendeva il sonno e a stento riusciva a tenere gli occhi aperti. Doveva bere un sorso d'acqua, sentiva il bisogno di urinare, si accorgeva di una briciola rimasta incastrata tra due denti e cercava di eliminarla prima con la punta della lingua e poi con un filo strappato dalla rilegatura del taccuino. Jadwiga era scesa in cantina per fare il bucato, dopo essersi fatta dare da Herman un quarto di dollaro da mettere nella lavatrice. In cucina Wojtusz stava tenendo una conferenza sugli uccelli a Marianna, appollaiata accanto a lui sul trespolo. La femmina teneva la testa bassa, con aria colpevole, come se venisse rimproverata per qualche imperdonabile misfatto. Il telefono squillò. «Che cosa vorrà adesso?» si domandò Herman. Aveva parlato con Masha appena mezz'ora prima e lei gli aveva detto che si sarebbe recata in Tremont Avenue a fare degli acquisti per le rimanenti giornate di festa. Sollevò il ricevitore e disse «Sì, Mashele?» Udì una profonda voce maschile emettere quel tipo di suono esitante e di gola tipico di un uomo e perde il filo del discorso. Herman cominciò a dire che il suo interlocutore aveva sbagliato numero, ma la voce chiese di Herman Broder. Lui non riuscì a decidere se fosse o meno il caso di riattaccare. Si trattava di un investigatore della polizia? Avevano scoperto che era bigamo? Chi parla? Domandò alla fine. La persona all'altro capo del filo tossicchiò, si schiarì la voce e di nuovo tossì, come un oratore che si accinga a prendere la parola. «La supplico di ascoltarmi», disse parlando in Yiddish. «Sono Leon Torschiner, l'ex marito di Masha». La bocca di Herman si seccò. Era il primo rapporto diretto che avesse mai avuto con Torschiner. La voce dell'uomo aveva tonalità profonde e il suo Yiddish sembrava diverso da quello di Herman e di Masha. Parlava con l'accento tipico di una piccola regione della Polonia. Ogni parola terminava con un lieve vibrato, come il suono prodotto dalle note basse di un pianoforte. «Sì, lo so», disse Herman. «Come ha avuto il mio numero di telefono?» «Che importanza ha? Ce l'ho, ed è questo che conta. Se proprio ci tieni a saperlo, l'ho visto nel taccuino degli indirizzi di Masha. Ho la memoria buona per i numeri. Non sapevo chi fosse, ma alla fine, come si può dire, ci sono arrivato». «Capisco. Spero di non averla svegliata. No, no». Torschiner tacque prima di continuare e Herman dedusse da quella pausa che egli doveva essere una persona prudente, uno di quegli individui che pensano faticosamente e reagiscono ad agio. «Possiamo incontrarci? Per quale motivo?» «È una questione personale». Non è molto intelligente. La riflessione balenò nella mente di Herman. Masha aveva detto spesso che Leon era uno sciocco. «Lei si rende conto? Ne sono certo che questo è estremamente spiacevole per me», si sentì balbettare. «Non vedo per quale ragione dovrebbe essere necessario, dato che lei ha divorziato e che...» «Mio caro signor Broder, non le telefonerei se non fosse necessario per tutti e due». In parte ridacchiò, in parte tossicchiò, emettendo un suono nel quale si combinavano l'irritazione divertita e la trionfante giovialità di chi ha battuto in scaltrezza il proprio antagonista. Herman si sentì diventare ardenti le punte delle orecchie. Non potremmo parlare al telefono? Ci sono cose che si devono discutere faccia a faccia. Mi dica dove abita e verrò a casa sua, oppure potremmo vederci in un ristorante. Invito io. Mi dia almeno un'idea di che cosa si tratta, insistette Herman. Si sarebbe detto che l'occidente stesse lottando alle prese con parole che si sottraevano al suo controllo. I suoni si tramutarono infine in parole. «Di che altro si può trattare se non di Masha?» disse Torchiner. «È lei il legame tra di noi, per così dire. È vero che Masha e io siamo divorziati, ma un tempo eravamo marito e moglie. Questo nessuno può negarlo. Io sapevo tutto di lei, signor Broder, prima ancora che lei me ne parlasse, non mi chieda come. Oh, come si suol dire, le mie fonti di informazione.» «Dove si trova adesso?» chiese Herman. «Sono a Flatbush. So che lei abita in qualche posto a Coney Island e, se le è scomodo venire fino a casa mia, allora verrò io nel suo appartamento. Come dice il proverbio, se Maometto non vuole andare alla montagna, allora la montagna andrà a Maometto.» «C'è un ristorante economico nella Surf Avenue», disse Herman. «Possiamo vederci lì?» Era una fatica per lui parlare. Indicò a Torchiner la posizione esatta del ristorante e gli disse quale sotterranea lo avrebbe portato sino lì. Torchiner si fece ripetere le indicazioni parecchie volte. In Herman destava non tanto vera e propria antipatia, quanto irritazione, perché lo aveva messo in una situazione così imbarazzante. Herman era inoltre sospettoso. Chi poteva mai sapere? Non era impossibile che un individuo così volgare fosse andato con un coltello o una rivoltella. Fece il bagno e si sbarbò frettolosamente. Decise di mettersi il vestito migliore. Non voleva mostrarsi male in arnese a quell'uomo. «Bisogna piacere a tutti», pensò ironicamente, «anche all'ex marito della propria amante». Scese nello scantinato e vide la propria biancheria intima girare turbinosamente dietro il vetro della lavatrice. L'acqua spumeggiava e schizzava qua e là. Herman ebbe l'idea bizzarra che quegli oggetti inanimati, l'acqua, il sapone, il candeggio, ce l'avessero contro l'uomo e contro l'energia di cui si avvaleva per dominarli. Vedendolo, Jadwiga si spaventò. Non era mai disceso, prima di allora, nello scantinato. «Devo trovarmi con qualcuno in un ristorante di Surf Avenue», le disse. E sebbene Jadwiga non gli avesse posto domande, le spiegò in modo particolareggiato dove si trovava il locale, dicendosi che, se per caso Torchiner lo avesse aggredito, Jadwiga avrebbe saputo dove trovarlo, oppure, se necessario, sarebbe stata in grado di deporre come testa in un tribunale. Ripeté persino varie volte il nome di Leon Torchiner. Jadwiga lo fissava a bocca aperta, con la rassegnazione della contadina che da tempo ha rinunciato a cercare di capire i cittadini e i loro sistemi. Eppure gli occhi di lei tradivano un'ombra di diffidenza. Anche nei giorni che gli aspettavano di un diritto, lui trovava scuse per andarsene. Herman guardò l'orologio da polso e si regolò in modo da non arrivare troppo presto al ristorante. Era sicuro che un tipo come Leon Torchiner si sarebbe presentato all'appuntamento con almeno mezz'ora di ritardo e decise di fare una passeggiata sulla Boardwalk. La giornata era assolata e mite, ma tutti i baracconi e i divertimenti avevano chiuso. Non restavano altro che porte chiuse con assi e manifesti sbiaditi e strappati qua e là. Tutti i fenomeni se n'erano andati: la ragazza per metà serpente, l'uomo più forte del mondo, il nuotatore senza mani e senza piedi, la medium che evocava le anime dei defunti. Il manifesto per annunciare che le funzioni dei giorni santi avrebbero avuto luogo nell'auditorio del Circolo Democratico era già strappato e macchiato dalle intemperie. Gabbiani volavano e stridevano sopra l'oceano. Le onde si gettavano verso la spiaggia sibilando e spumeggiando, indietreggiando di nuovo come sempre avevano fatto, mute di cani latranti nell'impossibilità di azzannare. In lontananza una nave dalla vela grigia dondolava sull'acqua, come l'oceano stesso, nello stesso tempo si muoveva e rimaneva immobile, un cadavere avvolto nel sudario che camminava sull'acqua. «Tutto è già accaduto», pensò Herman. «La creazione del mondo, il diluvio universale, Sodoma, la consegna della Torah, l'olocausto di Hitler. Come le vacche magre del sogno del faraone, il presente aveva inghiottito l'eternità, senza lasciarne alcuna traccia». Herman entrò nel ristorante e scorse Leon Torchiner seduto a un tavolo accanto alla parete. Lo riconobbe da una fotografia che aveva veduto nell'album di Masha, sebbene Torchiner fosse adesso molto più anziano. Era un uomo sulla cinquantina, con la testa quadrata e folti capelli neri, tinti, come si poteva capire a prima vista. Sotto le sopracciglia folte, gli occhi castani di Torchiner erano obliqui come quelli di un tartaro. Sulla fronte si vedeva una cicatrice che sembrava essere stata lasciata da una ferita di coltello. Una certa aria di affabilità polacco-ebraica faceva sembrare meno rozzo l'aspetto di quell'uomo. «Non mi assassinerà», pensò Herman. Sembrava incredibile che quel bifolco fosse stato un tempo il marito di Masha. Il solo pensarlo era ridicolo. Ma accade sempre così con le realtà. Perforano ogni bolla di superbia, frantumano teorie, distruggono convinzioni. Detto Herman, Torchiner fece per alzarsi, ma ricadde sulla sedia. «Herman, brother?» domandò. Tese una mano grossa e massiccia. «Shalom aleichem!» si accomodi», disse Torchiner. «Le farò portare un caffè». «No, grazie». «Un tè?» «No, grazie». «Voglio offrirle un caffè. Visto che l'ho invitata io, lei è mio ospite. Devo stare attento a non ingrassare, ma lei può permettersi una fetta di torta al formaggio». «No, davvero, non è necessario». Torchiner si alzò. Herman lo seguì con lo sguardo, mentre si muniva di un vassoio e prendeva posto nella fila al banco. Per la sua corporatura massiccia era troppo basso di statura, con le mani e i piedi vistosamente grandi e con le spalle di un uomo forte. In Polonia crescevano così, più larghi che alti. Indossava un vestito a righe, scelto evidentemente nel tentativo di sembrare più giovane. Tornò indietro con una tazza di caffè e una fetta di torta al formaggio. Si affrettò a prendere tra le dita un sigaro quasi spento, aspirò vigorosamente e soffiò fuori una nuvola di fumo. La immaginavo completamente diverso. Masha l'ha descritta come un vero e proprio Don Giovanni. Ovviamente non intendeva attribuire un significato sprezzante a quella descrizione. Herman idee di donne. Mi sono domandato a lungo se dovessi o no telefonarle. Non si fa tanto facilmente una cosa di questo genere, sa? Ho tutte le ragioni per esserle nemico, ma le dico subito che sono qui nel suo interesse. Se poi lei mi crederà o no, questo, come si suol dire, è un altro paio di maniche. Sì, capisco. No, non capisce. Come può capire? Lei è, a quanto mi ha detto Masha, una specie di scrittore, ma io sono uno scienziato. Prima di poter capire, un uomo deve disporre di tutti i dati, di tutte le informazioni. A priori non sappiamo niente, soltanto che uno più uno fanno due. Quali sono i dati? I dati sono che Masha ha comprato il divorzio da me per un prezzo che nessuna donna onesta sarebbe disposta a pagare, nemmeno se ne andasse di mezzo la sua vita. Credo che lei dovrebbe saperlo, perché se una donna è disposta a pagare un tale prezzo, non si può mai essere del tutto certi della sua onestà. Ebbe amanti prima di conoscermi e anche mentre viveva con me. Questa è la pura verità. Ecco la ragione per cui ci separammo. Sarò sincero con lei. Di norma non avrei avuto nessuna ragione di preoccuparmi del suo bene fino a questo punto, ma ho fatto amicizia con una persona che la conosce. Questa persona non sa niente dei nostri rapporti, se così li si può chiamare, e mi ha parlato per caso di lei. Perché farne un segreto? Si tratta di Rabbi Lampert. Mi ha detto che lei ha sofferto durante la guerra e che ha trascorso anni in un fienile e così via. So che lavora per lui. Lampert le chiama ricerche, ma non c'è bisogno di spiegazioni da parte sua. Lei è uno studioso del Talmud, io sono specializzato in batteriologia. Come sa, Rabbi Lampert sta lavorando a un libro per dimostrare che ogni conoscenza deriva dalla Torah e voleva che io lo aiutassi per quanto concerne la parte scientifica. Gli ho detto chiaro e tondo che le conoscenze moderne non si trovano nella Torah e che è inutile cercarle lì. Mosè non sapeva niente di elettricità o di vitamine, non solo, ma io non voglio sprecare le mie energie per pochi dollari, preferisco tirare avanti con meno. Il Rabbi Lampert non ha fatto il suo nome, Ma quando ha parlato di un uomo che si era nascosto in un fienile, beh, mi è bastato procedere a fil di logica, come si suol dire, la porta alle stelle. Ma naturalmente non sa quello che so io. È uno strano tipo, Rabbi Lamper. Mi ha chiamato immediatamente per nome e questo non è il mio stile. Le cose devono seguire il loro corso naturale. Ha da esserci un'evoluzione anche nei rapporti personali. È impossibile parlargli perché il telefono squilla continuamente. Scommetto che ha 1000 affari imbastiti contemporaneamente, ma che bisogno ha di tanto denaro? Ma ora verrò al punto. Voglio che lei lo sappia. Masha è una poco di buono. Né più né meno. Se vuole sposare una poco di buono è affar suo, ma ho ritenuto opportuno metterla sull'avviso prima che la calaffi nella sua rete. Il nostro abboccamento rimarrà, naturalmente, un segreto. In base a questo presupposto le ho telefonato. Leon Torschiner riprese il sigaro e lo aspirò, ma ormai si era spento. Mentre Torschiner parlava, Hermann era rimasto seduto con la testa abbassata verso il tavolo. Faceva caldo e lui desiderava potersi sbottonare il colletto. Aveva una sensazione di bruciore dietro le orecchie. Un rivoletto di sudore gli scorreva sulla schiena, lungo la spina dorsale. Quando Torschiner cominciò a giocherellare con il sigaro, gli domandò, a voce soffocata: Leon Torschiner si portò una mano a coppa intorno all'orecchio. Non sento, parli un po' più forte. Ho detto, quale prezzo? Lo sa. Quale è stato il prezzo? Non è poi così ingenuo, probabilmente penserà che io non sono migliore di Masha e, in un certo senso, posso capirlo. In primo luogo, è innamorato di lei e Masha è una di quelle donne delle quali ci si può innamorare. Fa impazzire gli uomini. Ha fatto quasi impazzire me. Primitiva com'è, ha la capacità percettiva di un Freud, di un Adler e di uno Jung messi insieme. E anche qualcosa di più. Inoltre è una brillante attrice. Quando vuole ridere, ride. Quando vuole piangere, piange. Non cercherò di negarlo. La amo ancora. Anche lo studente di psicologia, al primo anno, impara che si può amare e odiare contemporaneamente. Con ogni probabilità, lei si starà domandando perché dovrei rivelarle questi segreti. Che cosa le debbo io? Per capire, dovrà ascoltarmi con pazienza. La sto ascoltando. Non lasci raffreddare il caffè. Assaggi quella torta al formaggio. Ecco, così. Non sia tanto sconvolto. In fin dei conti, il mondo intero sta passando attraverso una rivoluzione spirituale. Le camere a gas di Hitler erano qualcosa di abbastanza grave, ma quando la gente dimentica tutti i valori è peggio della tortura. Lei appartiene senza dubbio a una famiglia religiosa, altrimenti dove avrebbe imparato la Gemara? I miei genitori non erano fanatici, ma si trattava di ebrei credenti. Mio padre aveva un solo Dio e una sola moglie, e mia madre un solo Dio e un solo marito. Masha le ha detto, probabilmente, che io ho studiato all'Università di Varsavia, mi sono specializzato in biologia e ho lavorato con il professor Volkonsky e l'ho aiutato a fare una scoperta importante. In realtà, la scoperta la feci io, anche se il merito andò a lui. La verità e che non ricompensarono nemmeno lui. La gente crede che i cavalli si trovino soltanto nei bassifondi di Varsavia o nella Bowery di New York. No, esistono ladri anche tra i professori, gli artisti, tra i migliori in tutti i campi. I ladri comuni, generalmente, non si derubano a vicenda, ma molti scienziati vivono letteralmente di furti. Quando i nazisti occuparono Varsavia, avrei potuto collaborare con loro perché disponevo di lettere di raccomandazione dei massimi scienziati tedeschi e sarebbero passati sopra anche al fatto che ero ebreo. ma non volli approfittare dei miei privilegi e dovetti attraversare l'intera Ghenna. In seguito fuggì in Russia, ma i nostri intellettuali laggiù fecero un voltafaccia e cominciarono addirittura a denunciarsi a vicenda. Era proprio quello che volevano i bolscevichi, li mandarono nei campi di concentramento. Tutti, quanto a me, un tempo avevo simpatizzato per il comunismo, ma poi, quando mi avrebbe fatto comodo essere comunista, ne ebbi fin sopra i capelli dell'intero sistema e lo dissi apertamente, puoi immaginare come mi hanno trattato. In ogni modo sopravvissi alla guerra, ai campi di concentramento, alla fame, ai pidocchi e nel 45 finì a Lublino. Là conobbi la sua Mascia. Era l'amante di un direttore dell'esercito rosso divenuto contrabbandiere e trafficante del mercato nero in Polonia. A quanto pareva il contrabbandiere le procurava viveri a sufficienza per sfamarsi. Non so esattamente che cosa accadde tra loro. Lui l'accusò di essergli stata infedele e Dio sa di che cosa altro. Non ho bisogno di dirle che Mascia è una donna attraente. Alcuni anni fa era una bellezza. Io avevo perduto tutti i miei. Quando lei seppe che ero uno scienziato, cominciò a interessarsi a me. Il contrabbandiere, presumo, aveva un'altra donna o ne aveva una mezza dozzina. Deve tener presente che ad ogni livello sociale la pula abbonda più del frumento. Mascia aveva trovato sua madre e partimmo tutti e tre per la Germania. Non avevamo documenti e dovemmo attraversare il confine di nascosto. Ogni tappa di quel viaggio era carica di pericoli. Volendo vivere, dovevi violare la legge, perché tutte le leggi ti condannavano a morte. È stato anche lei vittima della guerra e sa come stavano le cose, anche se ognuno di noi ha una storia diversa da raccontare. È impossibile parlare in modo ragionevole con i profughi, perché qualunque cosa si abbia da dire, qualcuno affermerà che è accaduto l'esatto contrario.